qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, sei solo chiacchiere. Mercoledì 18, e non andiamo errati, di gennaio del 2012. Le frequenze quelle di Radio Onda Rossa, 87,9 della banda romana e laziale. Da 34 anni e rotti, ormai quasi verso i 35 in questo 2012, in onda nell'etere romano e laziale, ma www.ondarossa.info, il sito della radio, sul quale potete ascoltare attraverso il tasto ascolta la diretta quelle che sono le nostre trasmissioni, oppure in podcast scaricare le autoproduzioni on air che la radio fa durante il giorno, quindi corrispondenze e trasmissioni. Andando a vedere su Sostieni, invece, sempre del sito, potete trovare le modalità con le quali poter sostenere questa radio. Non ultimo il contributo economico, appunto, su Sostieni troverete tutte le coordinate per farlo, perché Radio Onda Rossa vive da tutto questo tempo senza padroni e senza pubblicità. Onda Rossa @ondarossa.info, la mail per le vostre comunicazioni alla redazione. 25 o'clock@ondarossa.info e invece la mail del sottoscritto di 25 o'clock, dove potete sottoporci quelle che sono le vostre produzioni, le vostre critiche, insomma il nostro contatto mail. Ricordiamo sempre il numero del conto corrente postale della radio, 61 80 40 01, da intestare Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. E il recapito telefonico della radio 06 49 17 50, sempre quello. E al solito l'invito a farlo squillare. Ma questa sera, come già vi avevo anticipato nelle puntate precedenti, per questa sera e per la prossimo, il prossimo mercoledì, e arriva il trillo. Dicevamo, per queste due puntate, due interviste, due chiacchierate con i gruppi che ci fa sempre piacere di ospitare, e in special modo questo di questo mercoledì e quello del prossimo mercoledì. Stasera Dangerous Sound, che sono composti dai tre quarti degli ex Direttiva 16, che sono state tra l'altro la band che ha questa nuova serie di trasmissioni nel lontano 2002, hanno un po' così battezzato. E il prossimo mercoledì John Lelly, ex bassista dei Fugazzi, che sarà ospite qui a 25 o'clock. Però li andremo a scoprire fra poco, i Dangerous Sound, che invece ne parleremo con loro. Hanno fatto un bel salto di modi, di stili, con una produzione fresca fresca di qualche giorno, qualche settimana, che ci vengono a presentare questa sera qua in diretta. poi vedremo di dove andrà a parare il discorso. Ce l'avamo visti un po' prima per parlare un po' del loro lavoro, invece abbiamo parlato di un popolo di santi, poeti e navigatori. I navigatori non ci acchiappano più tanto. I poeti staremo a vedere, per quanto riguarda i santi non ce n'è mai fregato nulla da queste parti. E quindi parliamo di poeti. È l'unico argomento che forse ci interessa. Allora, le presentazioni, vi invito ad avvicinarvi al microfono mentre stavate lì così, presi da un attimo di panico radiofonico, però ci siamo, dai. Chi è che inizia a presentarsi innanzitutto? La band è il rito, la cosa classica, il nome, lo strumento che si suona, il ruolo che si ricopre. Vai, iniziamo da Massi. Allora, io... te devi avvicinare, lo prendi in mano, sì. Adesso okay, si sente? Va benissimo. Ok. Se conviene che lo prendete, afferrate il microfono con le mani. Prendilo. Ecco, abbiamo allora, stabilita questa disciplina. A prendere cose in mano non sono abituato, io diciamo. Allora, io sono la chitarra, sono Massimiliano e sono ho suonato un po' anche con i Direttiva, però suonavo il basso, quindi okay. È stato un po' un incontro così. Ho conosciuto Marco e da qui poi comunque abbiamo cercato di sviluppare l'idea di questo disco, senza di questo nuovo gruppo del disco. Sì, del disco, di questo nuovo gruppo che poi si è andato a formare. L'ho già detto, il mio strumento è la chitarra. E più o meno quando è nata questa formazione nuova? Nuova, la formazione. No, al di là effettivamente... del fatto di questo, poi magari sì, andremo sì. A spiegare bene, però sì, diciamo per dare così la scheda iniziale. Nel 2009 nascono Dangerous Sound. Esatto. E questa è la prima produzione. Sì, partecipando diciamo anche un po' per gioco a un concorso della Virgin, giusto? Era quello? Esatto. Mm-hmm. Ci siamo buttati un po' lì per vedere un attimo che effetto potevamo fare e niente, poi da lì abbiamo continuato. Ok. Il gioco diciamo ha sortito un effetto. L'effetto giusto. Ok. L'effetto poi? Giusto. Andando avanti. Lo sapevo che sarebbe toccato a me. Vabbè. Elsa basso, ma mi dissocio subito, nel senso che il lavoro creativo è stato fatto tutto da Massi e da Marco. Uh-huh. Io mi limito a suonare il basso. Con partiture che mi verranno passate, credo. Sì, prima o poi. Prima o poi, esattamente. Iniziamo subito bene con i dissociati qua. Marco voce e Valerio che continua a dare io la voce a Valerio che in questo momento si trova non so quante migliaia di chilometri, ma sta in Giappone. Però non in crociera. Che no, in crociera no. E Valerio batteria. Quindi okay. Vabbè, fai una sorta di delega, insomma, in bianco. Sì, sì, ma ho lasciato la delega. Però magari puoi pure dire magari delle minchiate così, dici no, ma questa l'ha detta Valerio. Ha detta Valerio, è chiaro. Io... Ma infatti noi abbiamo scelto sto mercoledì perché tu ci hai detto tra questo e quell'altro, noi abbiamo detto questo, così ne manca uno e si può okay, collare tutta lui, un po' certo. Come sta succedendo sì, in questi sì, giorni. Esatto, note vicende. E note vicende, sì. Vince, sono un amico di Massimiliano da ormai 30 anni dall'asilo, ho conosciuto quindi di riflesso Marco. Non suono, però fornisco diciamo tutto quello che è un il aiuto tecnico morale. Da quanto a parte quello che me li sento tutte le domeniche, ne la faccio più, guarda. Però il consiglio sì, il consiglio giustamente da buon amico, cioè se qualcosa non va sono pronto comunque a criticare, nel senso okay. Che ben venga la critica se costruttiva, come dicono molti, e in più per quello che riguarda la registrazione, la masterizzazione, fornisco un aiuto dal punto di vista tecnico. Sì, sì. Okay. Vabbè, un po' un lavoro dietro le quinte. Sì, insomma, sì, sì, molto, molto dietro le quinte. Oscuro, quindi c'hai adesso i 5 minuti radiofonici. Sì, tuoi. Sì, poi non mi fanno parlare più perché... Balla pure però. Ballo pure, ballo pure. Però dare alla mole, insomma, è interessante la coreografia. Va bene, io direi al solito di darmi il CD e di decidere intanto fra voi quale cosa mandiamo per primo. E poi ci abbiamo fighissima stasera perché ci abbiamo in MP3 su CD e praticamente i titoli però scritti da un'altra parte su un altro PC. Vabbè, sì. Dai, vediamo che esce fuori. Allora, richiamo alla serietà, richiamo alla serietà, ma forse non ci riusciremo nemmeno con richiamo, non ne si fa. Vabbè, proviamo a richiamare alla serietà, quindi che cosa mandiamo? È già pronta sul CD? Sì, allora, il primo brano... Aspetta che non si sente. No, non si sente. Sì, è una buona ragione. E ce l'andiamo ad ascoltare. E ce l'andiamo ad ascoltare. Allora, ripartiamo un attimo da capo. Eccola qua. Una buona ragione. Dangerous Sound. Chiedi a me un stanza buia per guardare il sole. Occhi nel presente, io so che non ho più niente da monetizzare. Con un fiume lento speri che spunti all'orizzonte un mare da incontrare. Allora, però già ascoltando questa prima traccia, questa una buona ragione, abbiamo già notato che c'è qualcosa da aggiungere rispetto alla presentazione che abbiamo fatto poc'anzi, così a schematica della band, perché si sentono delle tastiere, insomma una parte elettronica. Sì, su alcuni brani che poi generalmente sono quelli più vecchi, diciamo, c'era anche più vecchi di un paio d'anni fa, mi dicevate? Sì, del 2009, sì. Ci sono anche alcune parti di tastiera e di synth che venivano eseguite da un nostro amico Omar, che peraltro ringraziamo anche. Solo che poi ovviamente subito dopo, e diciamo, aver composto i primi pezzi, siamo andati avanti da soli. Ma pure perché comunque, per quanto ne so io, per come vi conosco, la band comunque vive pure di alcune vicissitudini poi che non sono proprio musicali, nel senso che alla fine sono vite abbastanza separate, quindi solamente una grande passione e una grande voglia di suonare insieme vi porta comunque poi a superare gli ostacoli anche così territoriali, dei chilometri, no? Che molti chilometri. Il tempo, ma ce l'avete comunque il tempo per suonare insieme? Sì, diciamo che, come dici tu, il tempo rispetto a una passione si ritaglia, insomma, per cui diciamo che oltre che quello che ci unisce, oltre che il discorso puramente musicale, è anche una visione d'insieme, per cui ci piace stare insieme, ci piace discutere delle cose, ci piace tradurre alcuni pensieri in musica. Hai quasi così tratteggiato una sorta di quasi di collettivo, insomma, non dico politico, però insomma di gruppo dei amici, insomma, o dei vecchi amici, insomma, conoscenti, che poi semplicemente vanno a usare uno strumento che non è quello classico per Beh, in realtà questa questione, adesso senza una parentesi infinita, questa, però la questione del collettivo è una questione che riguarda ciascuno di noi nel quotidiano. Voglio dire, il collettivo è nella musica, il collettivo è nel lavoro, il collettivo è nel non lavoro, il collettivo è veramente, la nostra vita è permeata di collettivo, ben venga, sarebbe drammatico se ciò non fosse. Ma una buona ragione è proprio la musica, come traccia del... Una delle buone ragioni. Potrebbe essere, sì. Se no, altrimenti, la seconda che hai detto, insomma, qual era l'intento appunto di questa, una delle prime canzoni del gruppo, quindi suppongo pure quando uno fa uscire le prime canzoni, i primi pezzi, ci mette un po' così quello che sarà il divenire, no? Qual era sta buona ragione? Ma una delle buone ragioni è quella di dire la nostra in ogni contesto possibile, quindi la vorremmo dire anche nella musica. Va bene, ok. Avete qualcos'altro da aggiungere rispetto a vabbè, insomma, quindi salutiamo Omar, lo ringraziamo, forse ci ascolterà, boh, chissà. E direi di andare a pensare a già, insomma, cosa mettere di seguito. Qualcosa resta, una storia, una spinta a partire, una rotta come una strada sul mare. Allora, chi me la presenta il prossimo pezzo per Dangerous Sound? E il prossimo... Solo il titolo, poi dopo... Sì, il prossimo pezzo è Coming to My World. Ok. Guess what? E mentre ci fanno compagnia sotto le nostre voci, dopo Dangerous Sound, l'ultimo lavoro degli Erasis, anche qui venuti però in forma telefonica qualche settimana fa. Allora, dicevamo che c'era molto da dire riguardo a sì, questa vicenda. Sì, sì, innanzitutto cioè... una cosa così, magari così ti dirò subito fuori, l'utilizzo dell'inglese, che non era una cosa insomma che in precedenza veniva... Guarda, mi trovo costretto a passare la palla al cantante che ne sa. Vabbè, sicuramente... Allora facciamo dopo. Dai, sì, no, sì, no, facciamola dopo. Facciamola dopo. Parliamo dopo della canzone, parliamo. Sì, parliamo, sì, bravo. Sì. Niente, la canzone praticamente parla... diciamo a vari punti, va a toccare vari punti, tra cui la televisione che sì è un mezzo di informazione ma molte volte fornisce una realtà che è distorta e imitativa rispetto a quella che vediamo tutti i giorni, ci impappano con cose che non sono quelle che noi vediamo. Mi soffermo su un pezzo in particolare che ho detto mentre il pezzo andava, quando diciamo dice che propone uno scambio, i tuoi soldi per le mie pietre. Beh, quello che ha fatto un po' lo Stato italiano nei confronti della gente, i potenti che appunto chiedono soldi perché hanno bisogno di soldi per mangiare di più. A questo punto io mi trovo a dire sì, ok, vi abbiamo dato i nostri soldi e ci avete dato le vostre pietre. I nostri soldi tenetevi, le pietre ve le ritiriamo tranquillamente. Questo insomma è sì, la conclusione sì, sì, del ragionamento. Diciamo di sì, sì. Ok, e quindi i media, la televisione, la realtà tra virgolette virtuale è un pochettino, può essere un pochettino messa come anche filo conduttore del lavoro oppure lo troviamo qua e là? No, come, sì, diciamo di sì, però come appunto dicevamo in precedenza, diciamo si spazia su vari temi. Appunto la quotidianità del gruppo è anche questo, vedersi, confrontarsi, parlare, tirare fuori argomenti e trasformarli appunto in musica, in suoni da poter fruire. Sì, sì. Dunque la relativa facilità dei suoni, nel senso che in un momento, in un mondo della musica insomma, in cui molte volte si tende un po' a andare verso gli estremi, no? A cercare sempre dei suoni nuovi che magari però sono anche di difficile ascolto, delle ritmiche particolari non ascoltate eccetera eccetera. Voi invece tutto sommato a livello musicale non proponete grandissime novità, ma vi attenete diciamo a un genere che è quello appunto del rock abbastanza classico. E ovviamente con il vostro stile, col vostro modo di arrangiare, di suonare, di metterci le parole, però diciamo senza andare a cercare troppe soluzioni sì, estreme sì, o particolari. Durante la composizione non c'è stata poi diciamo tutta questa ricerca del suono sperimentale oppure innovativo che magari non era poi quello adatto a quello che volevamo dire in quel momento. Abbiamo cercato di mantenerci sul classico, il classico è immortale, dicono, quindi... Ma forse proprio per questa facilità di fruizione, cioè comunque io non ti propongo qualcosa che... cioè propongo qualcosa probabilmente più di massa, meno, che fa meno selezione diciamo sull'orecchio abituato, ma lavorando appunto su un numero... Sì, sì. Un numero più grosso di utenti. Sulla quantità. Sulla quantità, sì. Beh, diciamo che poi proprio per gli eventi che hanno caratterizzato tutta la costruzione del disco, cioè il fatto che comunque dall'inizio della composizione dei pezzi alla fine effettiva del disco sono passati parecchi anni. Quindi ovviamente nel mentre le nostre... diciamo sia anche la tecnica sia anche le influenze sono anche cambiate, mutate. Abbiamo cercato quindi di mantenere il più possibile una linea dritta che non facesse notare troppo la differenza tra il fatto che comunque veniamo da influenze musicali molto molto diverse. e quindi abbiamo cercato di mantenere un po' lo standard che è quello del rock. Ok, veniamo a Marco, che gli devo fare appunto per come mai l'utilizzo dell'inglese in questo caso in due tracce, credo, se non sbaglio, no? Di più? Sì, forse tre. Tre. Guarda, su questa la risposta è velocissima, perché come dicevamo prima in apertura, perché secondo noi è un mezzo, quindi in questa fase riuscire ad avere a parlare a più persone possibili, adesso al di là delle presunzioni, insomma, ma poi qui ci sarebbe da aprire un discorso sull'autoproduzione, vabbè, anche qui apriamo una scatola, il vaso di Pandora, però significa avere delle possibilità, una possibilità in più per poter distribuire un prodotto, no? Che non è messa in relazione a un guadagno, ci mancherebbe, tanto è un prodotto perché uno l'ha prodotto. Esatto, è un prodotto perché uno l'ha prodotto e magari essendo un prodotto, dico una cosa brutta, ma insomma, per quello che insomma vuole significare propriamente, è un prodotto, quindi una merce, e una merce serve ad essere scambiata, e se la scambi con chi non capisce la merce perde di senso, no? Quindi questa cosa qui significa avere anche la possibilità di, non so, i contatti che abbiamo nei vari paesi, in altri paesi, ci possono dare appunto, possono dare un senso anche a questo tipo di scelta. Cioè dare la possibilità un po' a tutti, siccome questa è una lingua universale, ci dicono, e allora a questo punto ne fruiamo anche noi, per cui. Ma a proposito della distribuzione, te hai usato il termine distribuzione, poi magari facciamo rispondere anche le altre o gli altri. La distribuzione è cambiata, cioè da 10 anni a questa parte, no, quando ci vedemmo qui per presentare magari i primi EP di direttiva, 5 tracce registrate rozzissime, impresa diretta e distribuite tramite CD attraverso i banchetti, attraverso i centri sociali, quei pochi posti, diciamo, tra virgolette commerciali, che comunque accettavano appunto di avere materiale autoprodotto. Oggi sicuramente è cambiato il modo di ascoltare la musica, di distribuirla, di portarla dall'altra parte, come dicevi te, del pianeta, attraverso appunto la rete, internet, è cambiato tutto, insomma. Questa è una domanda che alla fine nelle trasmissioni, nelle chiacchierate che si fanno con i gruppi esce fuori sempre, insomma, perché il discorso ci va sempre a finire. Quindi che cosa è cambiato e magari nello spirito no, oppure nello spirito sì, se insomma questo modo diverso di fruire la musica cambia pure il modo di produrla. Troppo difficile? No, non è troppo difficile, è che come al solito te sei estremamente stimolante e mentre parli vengono 1000 pensieri, per cui bisogna selezionarli bene, perché in radio bisogna essere, tu mi insegni, abbastanza sintetici, no? Io no, per esempio, non ce l'ho sto dono, però sono più decotone, insomma, un po' così intero. Guarda, rispondendo alla domanda che facevi, come sempre, secondo me, almeno rispetto alla mia visione, poi non c'ho nessuna presunzione di verità, insomma, per cui io scindo due momenti rispetto al prodotto finale, che sono quello della produzione e quello della distribuzione, no? Oggi produrre un disco è un po' alla portata di tutti, un po', dico, perché ecco, se c'hai le conoscenze mie produci un disco con campanacce e bicchieri, forse se c'hai le conoscenze di Massi magari già tiri fuori questo prodotto che è abbastanza, dal punto di vista tecnico, rispettabile. E ora questo quindi è uno scoglio che per fortuna si è superato, perché significa essere riusciti a svincolarci dalle grinfie delle varie case produttrici, ammesso che qualcuno gli interessi un certo genere. Il grosso scoglio è la distribuzione. È vero che questa questione di internet, per quanto io sia vagamente luddista, aiuta parecchio nella distribuzione, secondo me riapre anche qui una serie di, non lo so, di considerazioni. Io, sarà che c'ho dei limiti io, e quindi vedo anche limitanti alcune questioni. Io, tanto per dire, sono un nostalgico del vinile, per cui figurati se, se te mi proponi di scaricarmi su in MP3, senti qua che roba, sono diventato uno forte che ne so, 5 brani di Pennywise, io ti dico ma proprio no, vado e mi vado a prendere proprio il prodotto, perché io sono un feticista e quindi ci do il prodotto in mano. Il limite probabilmente è tutto mio, perché ho necessità del feticcio, capito? Io ho proprio bisogno di quella cosa in mano, capito? Questo è. Ok, e sentiamo pure Elsa. Ma sta pure su altre cose. Stavo facendo la vaga, in realtà. Che leggeva il giornale leggevo il giornale al contrario, leggevo le battute di Spinoza e quindi mi divertivo altrettanto sentendo tutto questo. No, è che in realtà l'ambito musicale effettivamente è cambiato. Se mi chiedete ad attaccare la pipa, sono bravissima, per cui possiamo stare qui fino alle 2 di domani. E quindi vi consiglio di andare a prendere una birra fuori o un caffè. Io nel frattempo continuo. No, è vero che è cambiato il modo di fruire la musica, ma probabilmente è anche vero che negli ultimi, diciamo, 20 anni, dalla nascita dei centri sociali e quindi dell'alternativa musicale che si proponeva nei centri sociali stessi, che erano delle fucine effettivamente di proposte nuove dalle poste degli anni 90, sarà dei che laboratori di sperimentazione. Dei laboratori sono vecchia in questo senso, quindi sono rimasta legata a quel percorso lì. Quella cosa legata ai centri sociali e a quel tipo di distribuzione, di produzione alternativa, si è effettivamente un po' persa. Lo noto anche solo dalla partecipazione a eventi musicali legati ai centri sociali, in primis perché probabilmente non c'è più neanche un legame strettissimo con degli avvenimenti politici specifici, mm-hmm. e quindi delle vertenze reali per cui poi valga la pena andare a vedere un determinato concerto e un determinato gruppo che veicoli attraverso quel concerto un messaggio politico ben preciso. Uh-huh. E quindi questa cosa si è persa, perché insomma negli ultimi anni la trasformazione è stata lenta ma inesorabile, uh-huh. fino ad arrivare al prodotto finale, che probabilmente è solo prodotto. Uh-huh. Cioè bada più a non tanto al contenuto quanto alla forma. È vero quello che dicevamo e che diceva prima Marco, che più ci si allarga e a più persone si parla e probabilmente meglio si veicola un discorso, però lì bisognerebbe decidere quanto continuare a essere radicali e quanto invece piegarsi, diciamo così, al mercato, che è pur sempre un mezzo e un modo per... È il luogo più che altro dove, esatto, la gente consuma musica, ecco. Sarebbe probabilmente sì, mantenendo però una propria identità, probabilmente. Cioè, non fare consumare la, esattamente, musica, che non è un bene di consumo, è una merce, come accennava Marco, ma è qualcosa di diverso, di più, certo, antico, per fortuna, insomma. Fortunatamente sì. Va bene, detto questo, se non avete cose da aggiungere, se le avete, volentieri. Io direi che al solito mi preparate la terza proposta per questa sera, tratto dal disco che poi spieghiamo pure perché si chiama così sto disco, Burning Road. Si agita, serbata e nascosta come un tesoro, la stessa preziosa domanda: perché sgobbare in una fabbrica? Perché sporcarsi di... Allora, parlavamo appunto di contenuto, eccetera, quindi la seconda traccia che si chiama? La terza? La seconda? La terza. La terza che... Vabbè, possiamo pure continuare così, se no, con questo pipo che seguivo, tranquillamente. La terza traccia... tratta dal disco Burning Road, che si chiama Just a Boy, e che è la seconda in ordine sul disco. Esatto, ci siamo arrivati, dai. Grandi. Grandi. Torniamo in onda, 23:30 minuti primi, 25 o'clock a Radio Onda Rossa, il mercoledì notte. E mentre pure la Sausacchia approfitta per farsi fare amicizia con la band. Allora dai, siete pronti? Avanti. Il microfono c'è sta? Sì, Just a Boy. Ecco, tocca ancora a me, Just a Boy, esatto. In breve, sono cavoli vostri, parla di morti sul lavoro e su questo tema non possiamo che chiedere all'autore del testo della canzone, Marco, spiegaci. Che conduttore, che conduttrici, che conduttori. Io sempre quando vengo nel band me ne andrei proprio. Faccio, una volta ho fatto proprio autogestione. Praticamente si è presa la delega. Ha fatto lo scherzetto, t'ha fatto. Si è presa la delega tua. Passa, passa. Niente, è stato già un tema introdotto. Spinoso, insomma. Un tema spinoso, un tema molto triste, direi. E sì, è stato già introdotto. Parla di un ragazzo. Un ragazzo che era soltanto un ragazzo, fondamentalmente, e uno dei tanti ragazzi che esce la mattina da casa e non torna più. Mm-hmm. Ma per andare a lavorare? Eh certo. Non è che esciva così? No, per no, esce per andare neanche a lavorare, perché il fine non è andare a lavorare, il fine è tornare con il pane. Sì. E quindi faceva la cosa più che dovrebbero fare, sì. Tutti invece fanno in pochi, faceva la cosa cioè, che fanno in tanti, ma relativamente, cioè fanno in tanti, ma quelli che gli serve il pane, quelli che il pane già ce l'hanno e ce n'hanno in abbondanza e ce n'hanno per tanti altri, normalmente non la fanno sta cosa di andare a lavorare, fanno altre cose. Esattamente danno un numero di matricola a questi ragazzi, probabilmente, sì. quando questi ragazzi hanno almeno il minimo diritto di essere messi in regola, magari, e se no nemmeno ce l'hanno il numero di matricola, hanno solo la data di morte. Questa è una storia così che ti è venuta in mente per venuta da un fatto reale, da qualcosa che è successo nella quotidianità tua? Sì, questa è una storia che viene un po' da lontano, insomma, da 3 anni fa, perché io ho lavorato in questo settore, diciamo, cioè nel settore che si occupa di la prevenzione, della prevenzione sul mondo del lavoro, e mi è capitato che lavorando a Pordenone, avevo casa praticamente in un palazzo dove c'è una comunità dove abitavano tutti i ragazzi ghanesi, perché ci sono realtà che tengono conto, le migrazioni evidentemente seguono i precursori di alcuni popoli, no? Quindi a Pordenone era particolarmente forte la comunità ghanese, e uno di questi ragazzi praticamente un giorno non è tornato, e quindi insomma prende un po' spunto da qua. E rimane l'amaro in bocca, insomma. E rimane parecchio l'amaro in bocca, sì. Sì. Ok. Sì. Invece dal punto di vista musicale, cioè ad accompagnare questo testo, c'è quasi un tentativo di fare, diciamo, prima citavamo i Madness e te citavi magari i Clash, cioè quello che comunque era della canzone in qualche misura politica e della forma canzone ballata, in questo quasi c'è un giro ska, insomma, che accompagna appunto il testo. Qualcosa a levare, sì. Sì, sì. Qualcosa a levare, sì. Beh, devo dirti la verità, non ho pensato molto quando ho composto, diciamo, la parte musicale, non ho pensato molto a quello che dovevo usare, non ho finalizzato, diciamo, il pensiero su quello che poi è il brano effettivo. È uscito così, diciamo, un po' più sul... sulla ritmica che mi canticchiava Marco, che sul fatto che avessi, diciamo, scritto io prima la parte e lui ci avesse poi inserito un testo sopra. Alcune dei brani del disco sono composti esattamente così. Ci vedevamo quando potevamo, quando il lavoro lo permetteva, e andavamo avanti fischiettando con le suonerie del telefono e da lì proprio ci lavoravo dal ci lavoravo tutto, che ti viene in mente dal tutto giro. Il tempo restante, sì. Ho capito. E così è uscita Just a Boy. C'è Elsa pure, che mi sembra che voglia aggiungere. No, sì, da notare, forse non era neanche intenzionale, che la musica che ricorda sì forse Clash, ma forse anche no, però è un motivetto comunque allegro e orecchiabile, è in pieno contrasto con il testo, che invece accenna alla probabile morte di questo ragazzo che non torna a casa, ma evidentemente fa un po' a cazzotti, appunto, tra la musichina allegra e il testo abbastanza serio. Sì, però ritorna alla cosa dei Clash, perché i Clash, certo, scrivono delle cose tristissime delle volte, appunto, e uno quando sente un disco dei Clash veramente allegro, cioè, quindi se arrivasse prima la musica sarebbe orecchiabile, altrettanto poi arriveranno dopo anche le parole, quindi insomma. Benissimo, qui ci chiedono di aprire la porta, quindi dobbiamo un attimo mettere un secondo di base. Forza di cambiare si cambia, magari una ragione prima non c'era, ce ne sono mille ora in una volta. Certi silenzi sembrano in coro, sarà che in ognuno si agita, serbata e nascosta come un tesoro, la stessa preziosa domanda. Perché sgobbare in una fabbrica? Perché sporcarsi di fuliggine, se poi la sera soli con noi qualcosa trema e non si ferma mai? Che cosa c'è che dentro si muove? C'è che ognuno a suo modo lo sa, che il tempo è quasi scaduto e allora faccia una scelta e il tempo la giudicherà, perché quasi una vita si resta senza muovere un passo, poi si cambia di schianto e si comincia a correre, si qualcosa si muove, allora come luce vento sarà qualcosa che ti passa addosso e lascia solo un senso, una verità, il modo per non scivolare via nella corrente delle cose. Traccia una rotta. Traccia una rotta. Per meridioni distanti quanto i nostri ricordi da piccoli, oltre dove azzurrano i monti dietro la nebbia degli anni. Già c'è un sogno disperato di può dirti chi sei. Siamo un corpo, un pensiero, siamo tutto. Allora, a proposito delle cose che stavamo dicendo prima, cioè che uno la mattina si deve alzare e deve andare a lavorare, mi sembra che Dangerous Sound so quasi in smobilitazione, perché appunto quanto sopra. Allora, ci abbiamo pronta una quarta traccia in sequenza che presenta, chi presenta? Elsa? No. Che se ne va. Allora, non ho la minima idea di quale sia la quarta traccia. Comunque io vado, perché oltre a lavorare è terra lontana, la prima. Terra lontana, appunto. Ma oltre a lavorare c'ho anche una figlia. Quindi voglio dire, vabbè. Che ve lo dico a fare, che ce lo dici a fare. Va bene, quindi terra lontana e Dangerous Sound. E Dangerous Sound, e se vediamo. Bella. Bella, ciao ciao ciao. We'll be right back. Allora, e con un classicone andiamo quindi un po' così a concludere la chiacchierata di questa notte. E vedi oltre ogni festa. Dangerous Sound e il loro prodotto Burning Road. Burning Road. Vabbè, poi ve lo scambiate, dai. Iniziate. Cesaia, è acceso Burning Road. Perché Burning Road? Il titolo? Beh, il titolo non riprende alcun punto o frase. Perché? No, c'è un perché. Non riprende alcuna frase di alcun pezzo, di alcun brano del disco, ma semplicemente la sintesi di quello che ogni brano dice, insomma, sono strade di fuoco, sono tempi infuocati quelli che percorriamo e questo è. Invece Terra Lontana c'ha a che fare con delle migrazioni, la cosa che abbiamo sentito. Che è un... Io sono l'ultima persona che può parlare dei testi, perché... No, dei testi, perché Terra Lontana è pure perché... invece un... Quando parlavamo prima del rock classico, sì, forse anche sì, un po' sì. Italiano. È uno dei brani vecchi, tra virgolette, quelli scritti anni fa, che poi... all'inizio avevo solamente scritto il riffetto che poi fa da tema al pezzo. Poi l'ho ripreso e è uscito fuori un po' questa canzone, che poi diciamo di base è estremamente, estremamente semplice, non c'ha niente di complesso. Quello di cui parla, il mio grande vantaggio è che mi sono sempre occupato di musica, quindi cioè, suonavo e basta, non mi facevo la domanda di che cosa trattasse poi quello che ci andava a cantare Marco, però... Ma i cori li fate un po' tutti, però... Allora c'è anche la questione dei cori. I cori, cosa che diciamo ho sempre preferito non fare, infatti anche risentendo un po' i pezzi, che erano parecchie settimane che non li ascoltavo più, ho deciso di non farli, cioè mi dedicherò solamente alla musica, che mi riesce meglio. Ricordi... Ci stanno, scusa, ci sì. Stanno due tracce che sono praticamente suonate e cantate da te. Sì, ci sono anche due tracce che sono cantate da me, sì, che poi sono... No, era ubriaco comunque quando l'ha cantate. Sì, vabbè, ma questo non è... Non ero ubriaco in quell'occasione, ero lucido. E, sì, sono cantate da me, che poi diciamo sono le ballad del disco, che anche due lenti, i lentoni del disco, quelli che te la fanno prendere male. Mm-hmm. E... No, però diciamo, i cori li abbiamo fatti un po' tutti, diciamo, quando ci siamo trovati a registrare poi le diverse voci, li ho fatti Elsa, soprattutto io e Elsa. In Just a Boy per esempio si sente soprattutto Elsa, e c'ha la voce di un bambino di 9 anni. E lo dici però perché è andata via. Certo, ovviamente non l'avrei mai detto davanti a lei. Davanti a lei. Poi vabbè, Vincenzo anche. O se no riregistravo Marco, oppure chiunque entrasse dentro la stanza veniva sequestrato. Avrei usato anche mia nonna, sì, pur di finire il disco, sì. Comunque sì, diciamo i cori sono stati fatti principalmente da me e da Elsa. Però preferisco dedicarmi alla chitarra, che penso che mi riesca meglio. Mo poi abbiamo anche divagato. Terra Lontana. Spiega io un po' te. Chi vuole fare i cori, mette il dito qua sotto un po'. No, Terra Lontana sì, parla dell'immigrazione, di qual è la condizione di chi è costretto ad andare lontano dalla propria casa. E parla però anche un po' di una terra lontana, di quella terra che un po' tutti abbiamo nella nostra testa, lontana da quello che è quello che ci propongono, lontana dagli soliti schemi, da quello che dovrebbe essere giusto fare per essere perfettamente allineati a come ci vorrebbero. Ci sarà un posto al mondo, ma soprattutto nella mente, no? Uh-huh. Sì, magari perché non c'è, però è bene... Magari non c'è, è la terra che non c'è, capito? E quindi okay. Su questa cosa, un po' metaforica come... va bene. Come io mo dovevo fare una cosa, però non l'ho fatta, quindi vabbè, dobbiamo improvvisare. Adesso continuiamo un attimo qui senza sicura. Sentire, se mi sentissi vivo, ti farei vedere quello che so fare. Con in mano i giorni senza farli cadere, ed il sorriso giusto, e puoi farmi avanti sempre a testa bassa, senza pensarci troppo. Schiena dritta, come so dare la mano e come guardo lontano, e come so cambiare, e come so ascoltare, come so afferrare quel poco che rimane, e che nulla è un gioco, l'ho capito da poco, ma so come rimediare. Qui senza te, senza più il tuo sole a difendermi, io non ci so stare. Qui senza te, senza più nessuno si ferma, e ti farei ascoltare i pensieri occupati da mille conclusioni che più nessuno ascolta. Io per primo deluso da questo lungo inverno, ma prova ad ascoltare il silenzio che sale. Come ti può bastare? La vita sa far male. Allora, mo ci facciamo aiutare da tutti quanti quelli, pure di Geggiano, che sta qua in studio, adesso lo mettiamo in mezzo. Che cosa succede il 28 gennaio 2012 alle ore 22? Cosa succede? Innanzitutto buonasera a tutti e tutte, visto che mi ci trovo faccio anche i saluti. E succede che abbiamo un concerto a sostegno degli 87.9 di Radio Onda Rossa, penso che l'avrete già sentito insomma questi giorni. Durante le trasmissioni sulla nostra frequenza, concerto che si terrà al Forte Prenestino, dove avremo comunque in serata gli Scream più i Ghina, quindi insomma per chi, soprattutto per chi è appassionato, appassionata di certe sonorità punk, de roba vecchia, de roba vecchia insomma, giustamente come dice Fefo, ma comunque spunti punk, hardcore, anche hardcore giusto, io no vabbè, lo sai, io sono ignorante in materia. Consiglio è da venire, di venire, anche perché comunque sarà una serata dedicata a un vecchio compagno che è passato qui negli studi Radio Onda Rossa, Roberto Il Patata, molti e molte lo ricorderanno sicuramente, quindi comunque sia di motivi ce ne sono per partecipare. E poi comunque l'ho già detto ma lo ripeto perché non fa mai male, è una serata a sostegno di Radio Onda Rossa, campa e vive dal 1977 senza padroni, padrini e pubblicità. Questi sono i metodi di finanziamento per sostenersi e per andare avanti. E la radio ringrazia sempre comunque chi l'ha seguita e chi l'ha sostenuta in tutti questi anni. Questa ovviamente è l'ennesima occasione, l'ultima è stata quella del Capodanno ad Agrobax, un Capodanno riuscito anche quest'anno, e anzi facciamo anche i ringraziamenti per chi è venuto il 31 dicembre sia ad Agrobax che sotto Re Bibbia, perché anche quello è un appuntamento importante che ormai va avanti da qualche anno. Quest'anno poi è particolarmente riuscito bene, diciamo. E quindi questo è un po' il succo del discorso, che della patata bollente che mi ha passato Fefo, così una cosa insomma abbastanza impreparata. E per il resto poi non so se devo aggiungere qualcosa, posso andare avanti all'infinito, se no assolutamente no, io ti rilancio un po' la palla del discorso. Esattamente, io poi neanche so chi siano loro, io sono passato qui così per caso, ho visto. No, è un gruppo che dovrei sapere. Ah, ecco. Ok, sono nuovi. Vabbè, io insomma ti rilancio un po' il microfono. E te dove vai? Mo te tocca parlare. Eh sì, perché ci dobbiamo ricordare purtroppo di un evento spiacevole, che era quello di 10 anni fa, cioè quasi 10 anni fa, il 15 febbraio, quando se ne andò a patata. Così, ebbene, tra l'altro noi appunto dedicheremo, oltre al concerto appunto che ci sarà il 28 di gennaio, oppure il 15 di febbraio stesso, che è un mercoledì, dedicheremo una trasmissione speciale con i dischi di Roberto, nel senso proprio con i suoi, quelli che maneggiava lui, al soli, con tanti ospiti, con la gente che l'ha conosciuto, i compagni, le compagne, gli amici e le amiche di Roberto, non tanto appunto per commemorare, ma per ricordare quanto invece Roberto ha seminato e quanto noi raccogliamo giorno dopo giorno dei suoi stili, del suo modo di fare, eccetera eccetera. Direttiva 16 era il vecchio gruppo in cui militavate, e Roberto addirittura, non so se sicuramente produsse un testo anche più dei Direttiva, ma non so se addirittura suonò qualche volta con Direttiva o meno. Vabbè, ok, vai Marco. Beh, più volte è stato provato, abbiamo provato a incastrarlo, però aveva abbandonato la chitarra ormai e quindi si dava al vinile direttamente. Di Roberto ricordo sicuramente il sorriso, sicuramente la determinazione, sicuramente tante belle giornate, tante belle serate. Di Roberto ci ha lasciato tanto, ci ha lasciato una parte di quello che noi siamo e ci ha lasciato tutto di quello che vogliamo. E l'unica cosa che volevo dire è che io mi ricordo bene quel giorno, adesso al di là dei ricordi, che stavamo insieme, e se ti ricordi Ste, era uno sciopero generale e stavamo a Piazza San Giovanni, e quello che volevo dire... Scusate Maria, rimane sempre un po' difficile. Quello che volevo dire rispetto a questa cosa è che, se è vero come è vero che esiste una tipologia di infortuni sul lavoro e di incidenti sul lavoro che si chiamano infortuni in itinere, allora è vero che Roberto è uno dei tanti, uno dei troppi morti sul lavoro, perché Roberto quella mattina andava al lavoro, stava alla fermata dell'autobus e andava al lavoro. Per cui per me Roberto non è uno che se n'è andato così in un giorno qualunque, se n'è andato così in un giorno in cui lui andava al lavoro, e quindi per me è un altro caduto sul lavoro. Bella Robè. Ok, Emmy. Mentre appunto si fa purtroppo quando si parla di queste cose sempre il groppone in gola. E mentre vanno sotto la nostra voce gli Scream, non vi ho chiesto una cosa importante: com'è possibile reperire questo lavoro in giro? Aspetta che quello mi sa che è difettoso, forse quell'altro. È chiuso? No, è difettoso, c'ha dei problemi, vai. Niente, manco quello. Vai. Allora, è possibile reperire questi lavori su, vabbè, contatto MySpace, che è it.myspace.com/progetto0factory. E poi pagina fan su Facebook, basta inserire sul motore di ricerca di Facebook appunto la parola progetto Zero Factory. Come Dangerous Sound ci arrivi uguale? No, ancora no. Okay. Sì, è in fase di lavorazione. Sia pagina fan che contatto MySpace sono in lavorazione. No, lo dico perché se lo metti su Google vai a finire su altri progetti. Progetto Zero Factory. it.myspace.com/progetto0factory. Ok, però poi alla fine. Di cui fanno parte Dangerous Sound. Ok. Chiaramente una serie di supporti su CD saranno insomma nei circuiti noti. Con la solita distribuzione. Con la solita distribuzione. Di 10 anni fa. Esatto. Benissimo. Va bene, bella così. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao a te, ciao a tutti e tutte. Cosa vedo? Vedo un orizzonte, il sole, sopra il tempo che verrà, e se la strada è ancora lunga, per adesso cerco sola. Eccoli quindi. Il caldo nulla che sostiene. Dopo aver ospitato Dangerous Sound. Feria, luce bianca e senza vita. Io non mi sento più lo stesso. Questa è Ska. Che ci tiene. Vicini e lontani. E non c'è pausa nel silenzio. Mi manca sempre la tua voce. E quindi lo ripetiamo per l'ultima volta, l'appuntamento il 28 di gennaio con Patata nel cuore, Scream più China. Il freddo vuoto che trattiene ogni ragione attorno, le azioni per sentirsi meglio non ci basta più, e ora che cerchi nell'assenza parole per sentirti viva, ti perdi mentre ci cerchiamo noi, non siamo più gli stessi, ma ogni giorno mi sorprende, mentre scendo sempre più giù, mentre indico nel tempo tutto quanto non riesco più a darti, poi ogni notte E stavamo leggendo appunto sabato 28 gennaio 2012 ore 21 Radio Onda Rossa 87.9 FM Centro Sociale, occupato Forte Prestino, Scream, l'incredibile atteso ritorno di una delle band di riferimento della scena punk hardcore americana. Ma non solo, special guest Kina, Aosta Punk Hardcore dal 1982. E poi al lato, prima, dopo, intorno ai concerti, Saturday Radio Fever, ai controlli Shot in the Dark, Rude Boy Sound System. E dai, è pure dei Sound System. Una serata a sostegno di Radio Onda Rossa con Robento, Roberto Erpatata nel cuore. E così l'abbiamo letto bene, come da flyer. Voce, l'ultima notte tua in questa città, sento aprirsi le tue ali sopra di me che non so più volare. Con questo noi andiamo a concludere per questa notte. Salutiamo Mati, a cui non abbiamo ancora risposto, ma qualcosa che ti lascio, sfruttiamo il mezzo radiofonico per farlo. Interessi privati, l'uso del mezzo autogestito. Spiego quel che non dovrei, mentre cerco di seguirti nella mia... Salutiamo DJ Giano che ci è venuto a trovare, avete anche sentito in voce nel caldo vento che agita la mano. Ed è quel vento la tua voce, ma io ti so ascoltare. Zero 6 4 9 1 7 5 0, mezzanotte e 7 minuti, e siccome che ancora dobbiamo parlarci e la roba ci è piaciuta, noi questa roba qui, ascolta bene, la rimettiamo da capo. Senza sicura. Allora, la programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce qui. Noi vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Zara, che suonerà per voi fino a domattina alle 7.30 con la replica del GR delle 19.30 del mercoledì. Alle 8 la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa. A seguire la rassegna stampa cittadina, i redazionali vari della mattinata e gli aggiornamenti per quel che concerne ciò che succede in città e fuori e in tutto il mondo. Le azioni per sentirsi meglio non ci basta più. Alle 12 c'è Mamma Trona, alle 13 il giornale radio, alle 13.30 lo spazio comunicazione, a seguire Visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. Alle 16 Attica Blues, oltre la Black Music, e a seguire alle 17 La Schiena del Sol, a seguire Generazione Pio, come diavolo si chiama ora, e poi Profondo Rosa. Alle 19.30 il GR della sera, a seguire lo spazio comunicazione, e poi se gliela fa Gypsy Balca CPT Music, la nostra Marghe. A seguire suoni dall'intero globo attraverso i viaggi musicali che ci fa fare la Cicogna Nera. Poi si entra nel regno della magia e dell'oscurità attraverso il Noctibus Panis e a chiudere la notte di Radio Onda Rossa, Apostasia. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, sesso e carcere, la latitanza, clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE, eppure tutte le gabbie mentali, come dice qualcuna in questa radio. Stai bene, è un nuovo inverno, mi sorprende. Detto ciò, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, come ogni mercoledì, non dimenticando di dirvi, di ricordare che mercoledì prossimo a 25 o'clock ci sarà John Lelly, ex bassista dei Fugazzi, degli Ataxia e poi del suo progetto attuale solista. Comunque sono cose che chiederemo a lui. Bella così. share our dreams, I'll share our dreams under a communist moon.